Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, meccanismo dei certificati bianchi. E poi ci sono i decreti attuativi e quelli relativi al decreto legislativo rinnovabili dello scorso marzo. Tutti provvedimenti attesi da tempo, lasciati in sospeso dal precedente governo Berlusconi. Tutti provvedimenti la cui assenza genera una situazione di blocco degli investimenti nell'industria che resta ferma nell'attesa che vengano definite di fatto le regole del gioco per i prossimi anni. Ora la palla passa al nuovo governo ed è dunque con piacere che ospitiamo il nuovo ministro dell'ambiente Corrado Clini. Buonasera Clini. Buonasera. Dunque Clini, intanto da sue precedenti dichiarazioni lei sembra ottimista sulla possibilità che questi provvedimenti vengano varati prima di fine anno, vero? Direi che dobbiamo assolutamente farcela. Credo che riusciremo a finalizzare, mi auguro entro la prossima settimana, la proposta congiunta dei ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico. Infatti. E delle politiche agricole. Sì. Dopodiché questa sarà trasmessa alla conferenza Stato-Regione, conferenza unificata, per il parere, e poi se riusciremo a lavorare rapidamente, non avremo intoppi, ci abbiamo già incontrato, secondo il nostro calendario entro la metà del prossimo mese dovremo essere... dobbiamo aver concluso tutto l'iter. Parliamo dei decreti attuativi in ritardo, che sono la cosa più urgente, perché come ha ricordato lei abbiamo imprese che, non dico del tutto, ma in parte dipendono anche dallo scenario normativo. Certo. Che verrà definito con questi provvedimenti. Parentesi, certificati bianchi, anche questi scadono a fine anno. Esattamente, no? Che fanno parte del pacchetto. Senta, per quanto riguarda il 55%, le detrazioni fiscali, tra l'altro ci sono studi di Confindustria, dell'Enea, chi più ne ha più ne metta, che dimostrano che il costo effettivo per le casse dello Stato è ridicolo sostanzialmente. Cioè hanno funzionato. Guardi, molto bene. Non c'è nessun bisogno di convincermi, sono assolutamente sicuro di questo. Anzi, se facciamo una valutazione economica, possiamo dire che probabilmente i vantaggi sono superiori ai costi, perché sostanzialmente il 55% mette in moto un meccanismo positivo dal punto di vista produttivo, che altrimenti probabilmente non ci sarebbe. Le stesse valutazioni o le stesse considerazioni in merito al 55% valgono anche per tutte quelle misure incentivanti, ovvero misure che utilizzano meccanismi di credito d'imposta. Sì. O di riduzione dell'IVA, e che sono finalizzate a immettere nel mercato prodotti nuovi. Quello che voglio dire, perché questo è uno dei punti di riferimento del programma che io presenterò e sul quale spero di avere anche dei risultati positivi a breve, è che abbiamo bisogno in Italia, nel settore energetico in particolare, ma anche in quello della difesa del suolo, di promuovere investimenti nuovi in innovazione che abbiano l'effetto di produrre un risultato positivo nel mercato interno italiano, ma nello stesso tempo che mettano le imprese italiane nella condizione di offrire sui mercati internazionali prodotti competitivi. Quindi lei dice di collegare fondamentalmente l'incentivazione allo sviluppo tecnologico, soprattutto di nuove tecnologie, no? Ma certo. Quindi avete in mente anche delle forme di incentivazione dell'offerta e non solo della domanda? Penso, non so, delle detrazioni fiscali per chi fa ricerca e innovazioni su questi temi. Esattamente, in parte già ci sono e sono poco utilizzate, ma vorrei orientare di più sul lato dell'offerta per fare in modo che gli effetti degli incentivi, diversamente da come è avvenuto nel caso del fotovoltaico, si fermino in Italia, cioè che ci sia il doppio vantaggio di avere una disseminazione di sistemi energetici più efficienti oppure che utilizzano le fonti rinnovabili nel nostro paese, accanto al vantaggio di sostenere e consolidare la capacità di produzione italiana di questi sistemi. Oggi invece abbiamo visto con il fotovoltaico che il sistema incentivante adottato nel 2007 ha premiato soprattutto l'importazione di prodotti. Infatti. E ha generato in Italia una fiera di assemblatori, che per carità rappresentano comunque un'attività produttiva importante, però non sono esattamente quelli che aggiungono ricchezza. Per cui dobbiamo fare questo sforzo, e questo sforzo lo possiamo fare sia nel contesto del decreto legislativo sulle rinnovabili, sia nel contesto delle misure che stiamo preparando, il Piano Nazionale per l'Efficienza Energetica. Sì. Poi ancora tenga conto che dopo una lunghissima istruttoria abbiamo chiuso la procedura e firmato l'accordo con la Cassa Depositi e Prestiti, sì, che utilizzerà 600 milioni di euro del Ministero dell'Ambiente per concedere crediti agevolati al tasso dello 0,50% a chi vuole fare investimenti, sì, per promuovere efficienza energetica e anche l'uso delle rinnovabili attraverso l'impiego di tecnologie innovative. Questa misura è sostenuta da un fondo rotativo, perché la nostra, sì, idea è di muovere un sistema che poi si autofinanzi. È una misura che è destinata soprattutto a piccoli e medi investimenti, sì, perché l'idea è quella di disseminare nel paese soluzioni nuove, usabili anche a livello domestico, nei condomini, nei grandi complessi universitari e ospedalieri, nelle attività produttive. E io spero che sia un driver per sostenere la volontà, l'interesse di investitori in Italia. Chiamando investimenti, quindi, su anche su ricerca nel paese. Certo, questi sono segmenti che oggi hanno anche grande mercato internazionale, perché per esempio l'efficienza nei sistemi edilizi sta diventando uno dei punti di riferimento principali delle politiche energetiche della Cina per il risparmio energetico. Certo. Allora, se noi riusciamo a mettere a punto in Italia tecnologie a basso costo ma molto efficienti, innovative in questo settore, e qualcosa siamo già riusciti a fare negli ultimi anni, e le collochiamo in un contesto di cooperazione tecnologica, per esempio con la Cina, io le assicuro che la ricettività di quei mercati è molto forte, e questo diventa un fortissimo driver per le imprese italiane. Senta, mi pare di poter dire, insomma, che quindi lei prende un impegno preciso sul 55%, no? Assolutamente, e sì, sui certificati bianchi, e poi per quanto possibile sui tempi dei decreti attuativi. Esatto. Grazie, ministro Clini. A voi. Domani sera la seconda parte dell'intervista con il ministro Clini. Per intanto, buona serata.